Eccoci a Visionari, giovedì 12 settembre del 2013, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e da pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente, e chi se la sente può contribuire a farla vivere. Uno dei mezzi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00985, Roma. Bene, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 12 settembre, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti settimanali tra festival, rassegne e proiezioni, il link per ascoltare la puntata precedente e anche quelle d'archivio, e per inviarci la posta elettronica visionari@ondarossa.info, e oltre alla pagina del sito internet della radio c'è anche la pagina Facebook sempre di Visionari. Giovanni, che puntualità, eh? Ti ho chiamato proprio alle 14 esatte. Bravissimo. Allora, io ho scritto il professor Giovanni Spagnoletti per parlarci del documentario di Ken Loach, The Spirit of 45, in uscita nelle sale oggi giovedì 12 settembre, dopo quell'anteprima nazionale di sabato scorso al Teatro Valle Occupato, alla presenza di oltre 400 persone. Insomma, è stata una bella esperienza, no Giovanni? Sì, è stata una bella serata, mi sembrava che l'atmosfera fosse calda, per usare un termine calcistico, e quindi anche l'attesa. Io non ho visto l'uscita degli spettatori, quindi non so quanto poi gli spettatori abbiano gradito il film. Il film comunque è un pezzo di storia inglese, ma anche sì, internazionale, importante, che ci racconta degli argomenti che sono mirati certo all'impero inglese, alla situazione del 1945, alla riforma del welfare e dello Stato nel suo complesso, ma che come europei ci riguardano tutti. È stato l'antesignano un po' di tutto quello che è venuto dopo, proprio anche nel coraggio con cui il governo laborista, pur con, come dire, con tanti problemi, ha aggredito il problema delle nazionalizzazioni e della riforma del sistema sanitario in Inghilterra. Quindi questi sono aspetti antesignani, a pochi anni, cioè una decina di anni prima poi del collasso dell'impero inglese, avvenuto appunto a seguito della guerra di Suez del 1956. Sì. Cioè un pezzo di storia importante della modernità di tutti i paesi. E tra l'altro Loach fa anche un discorso di tipo politico, perché poi lui si sente in pieno dentro quello spirito del 1945, anche se nel 1945 era un bambino, è nato nel 1936, quindi non l'ha vissuto direttamente, ma sicuramente, proprio perché di famiglia operaia, ha cercato di restituire un po' questa coscienza anche nel bene, sì, dello Stato, l'idea che lo Stato non necessariamente intervenendo in maniera diretta nell'economia e nel sistema sanitario, come dire, faccia delle sciocchezze. Anzi, la tesi di Loach, ovviamente profondamente dirigista, è quella che tutto quello che è avvenuto dopo con Margaret Thatcher è stato invece il contrario. Ma tutti questi sono discorsi teologici, poi, perché il documentario è un documentario di montaggio straordinario, proprio per il materiale, sì, che si vede, Giovanni. Non è solamente un saggio, un secco saggio di storia patria, è qualcosa che, voglio dire, coinvolge anche uno spettatore contemporaneo, credo. Anche perché, Giovanni, ecco, due sono gli aspetti che mi hanno più impressionato di questo lavoro. Il primo è proprio la bellezza delle immagini, la scuola documentaristica inglese. La scuola che deriva appunto dalla tradizione di John Grierson degli anni 30, e che poi era stata fatta in qualche maniera riutilizzata dal free cinema a partire dalla metà degli anni 50 e via dicendo, quindi anche una qualità di immagini, di facce, di situazioni molto, molto, molto interessante, che cinematograficamente parlando ancora oggi reggono perfettamente il confronto con il documentarismo di oggi. L'altro aspetto, Giovanni, è quello dei corsi e ricorsi storici, nel senso si vede come le mobilitazioni popolari portino a determinati risultati e poi successivamente quando insomma la mobilitazione viene meno, il processo di privatizzazione significa tagli ai servizi, ai diritti e una deriva classista poi dell'accesso ai servizi e ai diritti. Beh, vabbè, questa è ovvia, è una come dire, si scontrano nettamente due idee come dire antitetiche, un'idea dirigista e una liberista, che hanno poi come dire un grosso fondamento anche nella bipartizione del sistema inglese, che conservatori e laboristi, sì, è sempre stata così, almeno sino al secolo scorso. Poi oggi le cose si sono complicate e diversificate. Sì. Certamente il momento, lo spirito del 45 è uno spirito di un popolo che, come dire, esce da una guerra devastata, da una Londra bombardata dalle V2 tedesche, ma con uno spirito indomito che ha subito voglia di trasformare proprio questa vittoria non solo in una vittoria militare, ma anche in una vittoria sociale. E questo Luce è quello che ci racconta in maniera molto brillante in questo suo film documentario. Mm-hmm. Adesso il documentario è molto di moda, è stato premiato persino col Leone d'Oro al Festival di Venezia, quindi è un buon viatico perché un pubblico che non sia solo quello degli Happy Few o dei Quattro Gatti, detto a romano, abbia la possibilità, richiamata dal nome di quello che è il maggiore regista inglese, un po' il simbolo del cinema inglese impegnato, ci propone oggi nei cinema di Roma e d'Italia. Sì, sì. Tra l'altro il tuo festival, quello di Pesaro, su questo discorso dei documentari mi sembra che abbia dimostrato sempre una grossa attenzione. Beh sì, abbiamo fatto una grossa rassegna l'anno scorso proprio su come il documentario italiano raccontava la realtà del nostro paese. Abbiamo fatto anche un libro, quindi insomma diciamo che, però questo è un documentario diciamo così particolare perché è un documentario solo di materiale di montaggio. Sì, sì, sì, sì, con, sì, sì. Con delle con intercalato da delle interviste molto con pochi testimoni di quell'epoca, mm-hmm, che raccontano insomma, ma sostanzialmente il lavoro è un lavoro praticamente quasi al 80%, 80-90%, sì, sì, sì, di tipo di montaggio, lavoro di montaggio. E anche lì è come dire, il ritmo delle immagini è molto coinvolgente già di per sé. Mm-hmm. Bene, da oggi nelle sale, dovrebbe essere in una sola sala qui a Roma, non so nel resto d'Italia, e comunque speriamo, vediamo un po' i risultati di questa uscita. Giovanni, io ti ringrazio, un abbraccio e risentirci. Grazie presto. Grazie a te, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Professor Giovanni Spagnoletti sul documentario di Ken Loach, The Spirit of 45, in uscita oggi nelle sale, oggi giovedì 12 settembre. Ecco noi Paolo Zucca, regista del film L'Arbitro, presentato a Venezia in uscita nelle sale oggi giovedì 12 settembre. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, sono in Sardegna, sto per fare un tour per la città di Cagliari a presentare il film in 5 sale. Sono molto entusiasta di come sta andando il film, tutto a posto. Tra l'altro Cagliari degli ultimi tempi mi ci imbatto spesso e volentieri, mi sembra che stia in qualche modo in grosso fermento dal punto di vista artistico, dal cinema al teatro, insomma mi capita più volte di contattare Cagliari proprio. Sì, no, Cagliari è una città sempre più viva. Ha un ottimo sindaco che è giovane, al di là insomma della sua appartenenza politica, che neanche mi ricordo quale sia, comunque è un bravissimo giovane sindaco che sta investendo sulla cultura, che mi ha anche cercato per chiedermi dei consigli in modo molto così, molto sincero, spontaneo. Quindi sì, è una città in crescita culturale Cagliari, più di tante altre. Senti Paolo, l'arbitro allora a Venezia, come ti chiedo che risposta, che tipo di risposta c'è stata? No, c'è stata una risposta molto positiva. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere in preapertura, quindi eravamo il primissimo film di tutta la mostra del cinema, per cui questo ci ha dato una grande visibilità mediatica. Molti hanno parlato di noi e molti ne hanno parlato bene. Addirittura mi hanno paragonato ai fratelli Coen, quindi io più di così non posso chiedere. Anzi, sì, leggevo. Abbiano un po' esagerato, però fa piacere. Ecco, proprio a partire da questo paragone ai fratelli Coen. Allora, per chi ci ascolta, Paolo, e come lo descriveresti in breve questo racconto? È la storia di un arbitro molto ambizioso che, travolto dalla propria ambizione, passa dalle stelle alle stalle. Le stalle sono la terza categoria sarda, che è la terza categoria calcistica sarda, sì, che noi raccontiamo in modo surreale, un po' grottesco, ma soprattutto divertente. Come nasce il tutto? Come è nato il progetto, l'idea, e come l'hai realizzata poi? Sì, il tutto nasce da un cortometraggio che nel 2009 vinse il David di Donatello. Sì. Questo corto partiva come da una frase di Sant'Agostino, una frase famosa che recita così: non disperare, uno dei due ladroni fu salvato, non ti illudere, uno dei due ladroni fu dannato. Un giorno scoprì che questa frase era la preferita di Samuel Beckett, del drammaturgo, e decisi di scrivere una storia che raccontasse proprio due ladroni. Uno era un arbitro calcistico, che è un universo che mi ha sempre interessato, e l'altro era un ladrunco di agnelli, e ho scritto un corto che raccontava l'incrocio di questi due personaggi. Sì. Dopodiché, dopo i successi del corto, che ha girato il mondo e ha avuto diciamo un ottimo successo, abbiamo scritto un grande prequel, cioè abbiamo raccontato come non solo i due ladroni ma anche altri personaggi come l'allenatore o la figlia arrivano a una partita finale che è la bolgia infernale che poi c'era già nel cortometraggio. Questo è stato lo sviluppo più o meno. A partire dai due ladroni di Sant'Agostino siamo arrivati a una commedia corale in cui si è inserita Geppi Cucciari in una versione inedita e sexy, e poi Benito Urgu, che in Sardegna è una star, che fa un allenatore cieco. Poi c'è un cameo molto divertente di Francesco Pannofino, che fa il verso che interpreta l'arbitro Mureno, il cui nome diciamo è casuale ma in qualche modo evoca un personaggio conosciuto a molti italiani. Sì. Senti Paolo, il tuo percorso artistico a questo punto, visto che hai citato questo cortometraggio che insomma ha ottenuto un importante riconoscimento, poi come ti sei mosso? Quali sono i lavori che hai seguito? No, io diciamo come percorso di formazione, questa è la domanda. Sì, anche, certo. O dopo il corto? Prima e dopo il corto. Dunque, io ho studiato lettere, mi è sempre piaciuto leggere e scrivere. Ho fatto una bellissima scuola di sceneggiatura alla RAI, cioè la scuola RAI per sceneggiatori cinematografici e televisivi. Poi, mentre molti dei miei colleghi di questa scuola si sono buttati nel mondo della fiction e seriale. Sì. Io ci ho provato, ma per me era troppo noioso, poi non ci riesco proprio a farlo, non sono dotato in questo senso. Allora ho deciso di iniziare a girare le mie prime cose. Ho girato dei corti fatti in casa, con gli amici, con i parenti, e devo dire che vivere in Sardegna, da questo punto di vista, è un po' un vantaggio, perché le persone hanno più tempo libero, non devi chiedere il permesso a nessuno per girare in una piazza o dentro una chiesa, o insomma, nel senso, è tutto molto più semplice, perché siamo due gatti in Sardegna. Ecco, proprio di questo ad esempio mi interessava, visto insomma che la Sardegna esce fuori prepotentemente, qual è il tuo rapporto con l'isola? No, il mio rapporto con l'isola, diciamo, io non, diciamo, in Sardegna ho trovato un grado di generosità e di e di aiuto e di supporto da parte di persone, istituzioni, enti locali che non avrei trovato in nessun'altra parte del mondo. Quindi da questo punto di vista è ottimo. Sì. Io sto molto attento, diciamo, come artista a non cadere negli stereotipi, nel senso che gli stereotipi li conosco bene. Sì. Addirittura ho scritto un film che non so se farò mai, però era un insieme di tutti gli stereotipi esistenti sui sardi, ci ho messo 2 anni a catalogarli. Infatti ho girato il film in bianco e nero soprattutto per questo motivo, perché non volevo che i sardi pensassero guarda come ci rappresenta, come dei pezzenti che giocano nei campi di ghiaia, no? Sì. Allora ho usato il bianco e nero per allontanarmi dalla contingenza o dall'attualità, per raccontare un mondo sognato e, diciamo, è una Sardegna molto molto astratta quella che racconto nel mio film. E poi l'altro argomento chiaramente è il calcio, ecco, a questo punto ti chiedo anche come vivi il calcio e cosa ne pensi del calcio attuale, ad esempio. Dunque, anche se il film racconta in modo abbastanza impreciso, cioè evoca più che raccontare delle vicende di corruzione calcistica, cioè non è questo il nucleo del film, perché quello che mi interessava era la fragilità e l'ambizione di una persona che è l'arbitro, che poi sì. è il protagonista interpretato da Stefano Accorsi. Detto questo, un po', diciamo, ho seguito le vicende della corruzione calcistica, soprattutto quelle del 2006, ma soprattutto per capirne un po' il linguaggio, i modi di dire, ho letto le intercettazioni. Però diciamo che non è che il film è un instant movie o un film che racconta Calciopoli. Certo. Diciamo c'è come sfondo linguistico qualcosa, ma ben poco. Detto questo, il calcio mi interessa molto, diciamo, come fenomeno letterario, cioè mi piacciono le grandi sfide, i personaggi come Maradona, come Garrincha. Tra quelli contemporanei mi piaceva molto Mourinho, cioè i personaggi che hanno un mondo molto personale e che sono dei personaggi fondamentalmente letterari. Mi piacciono le grandi sfide, Real Madrid-Barcellona, o i mondiali naturalmente. Non guardo il calcio tutte le domeniche perché un po' mi annoia. Senti Paolo, e poi come sei riuscito a mettere insieme questo cast così interessante? È piano piano, diciamo a uno, diciamo che il colpo grosso l'ho fatto con Stefano Accorsi, che devo dire la verità, questo l'abbiamo detto a tutti, ci siamo incontrati per caso in un albergo. Sì. Io comunque quando vado a Roma portavo sempre la copia del corto in tasca, e gliel'ho fatto vedere, gli è piaciuto moltissimo, ha letto il copione, gli è piaciuto molto anche quello e siamo partiti da Accorsi. Poi è più facile dire pronto, mi chiamo Paolo Zucca, faccio un film con Stefano Accorsi, ci stai? E infatti, diciamo, poi sono tutti saltati a bordo anche grazie, diciamo, al fatto che ci fosse Stefano. Benito Urgu, non so quanti lo conoscono fuori la Sardegna, ma per noi è come Lino Banfi in Puglia. Anzi, Geppi Cucciari l'ha definito come i Kiss, ma tutti e quattro insieme, perché tutti i sardi sanno a memoria le barzellette di Benito. Ieri abbiamo fatto una presentazione a Oristano, che abbiamo fatto una pre-anteprima, sì, diciamo, sì. E Benito ne ha raccontato 2 o 3, ma barzellette che tutti noi abbiamo sentito 100 volte e le sentiamo da 20 anni, eppure è sempre irresistibile. Senti Paolo, da oggi nelle sale in quante copie esce? Dunque, usciamo in 62 copie, con una partenza un po' cauta, ma la mia speranza è che poi alla gente piaccia e magari ci ampliamo un po' di più. Senti, questa locandina con questa posa un po' arte marziale? Sì, un po' arte marziale, un po' torero, perché comunque volevo che la locandina rappresentasse un po' il film, cioè il film è un film, oltre a tutti i discorsi che abbiamo fatto contenutistici, è un film veramente un po' folle, è un film un po' fuori dagli schemi. Sì. E quindi volevo che la locandina rispecchiasse anche questa nonchalance che noi abbiamo messo nel film, cioè diciamo che non è che ci prendiamo troppo sul serio. Fondamentale. Bene Paolo, è stato un piacere e speriamo di sentirci presto a questo punto. Io vi ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori. A presto, ciao Paolo. Grazie. Paolo Zucca, regista del film L'Arbitro, dopo Venezia, in uscita oggi, giovedì 12 settembre, nelle sale. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, e poi visionari anche la pagina su Facebook. Parliamo ora, restando a Venezia, di Old Cinema, una struttura di cui ci siamo occupati anche tempo fa. Lo facciamo con Roberta Bonazza. Ci sei, Roberta? Ci sono Federico. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, Old Cinema, per chi ci ascolta e magari non ha seguito le storie precedenti, cos'è Old Cinema? Ma Old Cinema è, diciamo, un progetto che si occupa del monitoraggio e del recupero dei cinema perduti. E devo dire che appunto l'argomento è molto molto interessante quanto complesso, perché suscita chiaramente sentimenti e ricerche diverse a partire dai luoghi della nostalgia, se vogliamo, no? del cinema inteso come un rituale collettivo, ma fino poi alle frontiere dell'innovazione, perché ci stiamo proprio chiedendo cosa succederà alle sale da cinema. E quindi il tornare a Venezia è stato un modo anche per fare un bilancio rispetto al lavoro fatto in questo anno, e ci ritroveremo ad Arco e a Riva del Garda in Trentino, dentro proprio un vecchio cinema del 1912, e porteremo i casi e le realtà che non sono solo trentine ma che sono nazionali rispetto a questo problema, ecco. Oh, quindi è stata fatta comunque una prima mappatura a livello nazionale? Diciamo che la mappatura a livello nazionale è in corso e è sempre più articolata, perché chiaramente fare una mappatura sul campo, come è stato fatto l'anno scorso proprio in Trentino, significa un lavoro veramente di anni e anche molto di dettaglio. Quindi quello che la cosa bella che cominciamo a vedere comporsi è proprio che, grazie al lavoro di Old Cinema e anche al dibattito che abbiamo messo in atto, tantissime realtà ci hanno chiamato e ci hanno parlato della loro resistenza individuale nei loro centri storici, nelle loro grandi città, nei loro piccoli paesi. E proprio all'interno della nostra kermesse trentina abbiamo invitato alcune di queste realtà con la quale converseremo. Ad esempio ci sarà Claudio Casazza, questo regista di Milano, che ha fatto un lavoro di ricerca per anni, che poi è stato restituito dal suo docufilm. Avremo con noi Roberto Zibetti, che in videoconferenza ci parlerà di questa straordinaria architettura, tra il resto per una felice coincidenza progettata da un bravissimo architetto trentino che è Adalberto Libera, che è il Cinema Airone di Roma. E così parleremo dell'Altino di Padova. E noi crediamo veramente che la funzione di Old Cinema sia proprio anche quella di riuscire a mettere in rete, a comporre il mosaico, a capire chi anche a volte in solitudine sta facendo un grandissimo lavoro culturale nella propria realtà. Ecco, proprio a livello, ecco, prima parlavi di resistenza e di recupero di sale abbandonate, ecco, raccontaci un po' meglio, ecco, la finalità di Old Cinema e cosa volete arrivare a fare. Ma guarda Federico, il nostro sogno, proprio per dirti, il nostro sogno sarebbe di riuscire a recuperare, sì, proprio in maniera diciamo sia di funzione sociale, per cui programmando film e guardando film insieme, ma anche per il valore architettonico che hanno alcuni luoghi, no, straordinari, veramente di un grandissimo valore architettonico in Italia, recuperare almeno un cinema per, sì, per ogni regione, e riuscire a metterlo in rete e riuscire a far sì che dentro quel luogo in qualche modo si rimetta in moto qualcosa di nuovo, anche con le nuove tecnologie, perché no? Cioè non vogliamo, ecco, fare del lavoro una questione nostalgica, sì, o solo, sì, legata, sì, al passato, tutt'altro. Però il nostro sogno sarebbe quello di poter dire, magari già l'anno prossimo, ecco, vi presentiamo il primo Old Cinema che è partito in Trentino in concomitanza con quello di Roma, perché quello che vediamo è che ci sono delle realtà che stanno lavorando, ad esempio come anche il Kino di Roma, però con grande fatica e a volte ad intermittenza, no? Per, sì, cui magari il cinema viene riaperto per un evento, viene riaperto, però la continuità ancora pare lontana, ecco. Oh, Roberta, due dei più grossi ostacoli che mi vengono in mente rispetto alle monosale che lentamente ci stanno abbandonando è la disaffezione del pubblico da una parte e dall'altra la digitalizzazione. Certo, questa è proprio, diciamo, questo è ciò che non, è ciò che non, non, come dire, non sapremo, è difficile prevedere cosa succederà, perché la digitalizzazione effettivamente da una parte ha chiamato le sale che ancora stanno lavorando ad uno salto di qualità, perché noi sappiamo che anche da un punto di vista proprio gestionale viene richiesta anche un investimento per trasformare la sala affinché poi sia in grado di poter proiettare il digitale, e dall'altra permette, diciamo, un consumo anche più individuale, no, di quello che è il film, che è veramente il punto interrogativo. Noi vogliamo guardarlo anche con ottimismo, devo dire, perché crediamo che anche dalle interviste che abbiamo fatto, dalle persone che ci chiamano, vediamo che in realtà c'è ancora una volontà, una voglia, un desiderio di ritrovarsi insieme a condividere questa meraviglia che è il cinema. Certo, come dicevi tu Federico, queste sono le problematiche, dentro anche una problematica proprio di tipo gestionale, anche economico, perché gestire una sala chiaramente non è cosa da poco, per cui a volte il mercato immobiliare arriva, fa proposte, prende il vecchio cinema, lo trasforma in una sala bingo, e lì è difficile poi, no, riuscire anche a fare qualcosa. Un'idea che mi viene in mente adesso all'istante sentendo questa storia, Roberta, è che la vedo per esempio affiancata al lavoro che stanno facendo la Cineteca di Bologna, la Cineteca Nazionale, riguardo al restauro delle vecchie pellicole e addirittura alle proposte in sala di alcuni di questi lavori, per cui magari si potrebbe pensare a cinema storici e di pregio in cui si svolgano eventi come questi. Sarebbe veramente un incontro felicissimo, anche perché, come dicevo prima, il lavoro straordinario che stanno facendo salvando le pellicole, perché i luoghi sono importanti, ma chiaramente quello che ci fa entrare in un luogo e spegnere la luce chiaramente è poi il film. Certo. Quindi noi veramente abbiamo fatto anche un incontro con la Cineteca di Bologna e volentieri vorremmo proseguire anche aprendo delle collaborazioni con loro, ma anche perché veramente ci sono tante persone che avrebbero che hanno desiderio di rivedersi un bel film, ma veramente proprio nel profondo, e quindi crediamo che se i due lavori culturali riuscissero a trovare un incontro sarebbe veramente una cosa bella. Anzi, lanciamo un messaggio in tale direzione. E Roberta, per chi volesse saperne di più su Old Cinema, ci lasci qualche riferimento? Noi abbiamo sì il nostro sito, che è www.oldcinema.it, dove mettiamo tutti gli aggiornamenti e dove racconteremo anche così la nostra tre giorni che faremo qua in Trentino, dove abbiamo invitato il maestro Pupi Avati, Giuliano Montaldo e, come dicevo, questi casi nazionali che si confronteranno all'interno del cinema impero, e lì troverete tutte le informazioni che il nostro valentissimo ufficio stampa curato da Cristina Gattamorta monitorizza ogni giorno, per cui lì troverete tutto. Benissimo. Roberta, è stato un piacere, spero di avere presto vostre notizie. Grazie Federico, il piacere è sempre nostro, e anche un ringraziamento a voi che ci permettete di poter parlare di questa avventura. Bene, un abbraccio, a presto Roberta. Altrettanto, ciao. Roberta Bonazza di Old Cinema sui progetti presentati a Venezia. In collegamento con Candido Coppetelli, coordinatore delle associazioni nazionali di cultura cinematografica. Ci sei, Candido? Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Federico, e grazie di questo generoso invito. Allora, voi siete di ritorno da Venezia, mi diceva Angelo di un paio di articoli su Diari di Cineclub in uscita in questi giorni, che parlano degli ennesimi tagli ministeriali al settore. Dici un po' tu, Candido, di questa situazione. Guarda, siamo rimasti basiti, perplessi, non so definire l'atteggiamento con il quale ritrovarsi per l'ennesima volta tagliati in maniera indiscriminata rispetto alle altre offerte di promozione cinematografica. Ti spiego, le nostre associazioni, siamo in 9, sì, sono riconosciute a livello nazionale con un articolo di legge specifico nell'ambito della promozione del cinema. Ebbene, 2 anni fa abbiamo subito un taglio del 30% netto lineare. Alla vigilia di Venezia riceviamo la comunicazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che a questo 30% si aggiunge un ulteriore 15% di taglio. E rimaniamo veramente perplessi, perché di fatto, se andiamo a guardare un pochino tutto i tagli complessivi alla promozione del cinema, si aggirano intorno al 2% complessivo, e non capiamo come la funzione che le associazioni nazionali di cultura cinematografica presenti sul territorio nazionale da oltre 60 anni subiscono. Ecco, mm-hmm. Questo taglio ci lascia continuamente interdetti, anche sì, perché il nostro lavoro non è un lavoro di promozione guidato dalla logica della, come dire, del bel è un lavoro fatto di attenzione quotidiano di 365 giorni l'anno per promuovere il cinema lì dove non c'è più magari una sala cinematografica. Siamo presenti in tutte le nove associazioni in più di 800 comuni in Italia. Sì, sì, sì. Cioè, sì. Mi spiego, il nostro lavoro, ripeto, non gode del glamour, ma è fatto di un quotidiano lavoro di promozione del cinema, e di questo sembra che al Ministero interessi sempre meno. Ecco, quindi siano chiari, o tagliano o chiudono quell'articolo di legge, riformano la legge e dicono voi non ci interessate, oppure ci ridiano la giusta il giusto riconoscimento per sopravvivere. Sì, sì, ripeto, sì, migliaia di persone che lavorano attraverso lo stile del volontariato culturale e promuovono il cinema italiano, il cinema europeo, il cinema di prossimità, che nessuno riesce in qualche maniera a veicolare, proprio perché inibito dalla logica distributiva che guarda al consumo tutto e subito del cinema. Sì. Mi spiego? Sì, sì, sì, sì. Senti, scusami, sono molto, come dire, su di giri. Giustamente, per giustamente. Obiettivamente siamo rimasti basiti. Sì, sì. Tu, sui tagli ci torneremo. Volevo chiederti, visto che hai parlato di queste 9 associazioni sì, che rappresenti, migliaia di persone impiegate in esse, qual è, ecco, soprattutto per chi ci ascolta e vuole capire, l'attività di promozione culturale che svolgono? Allora, si articola dal un lavoro editoriale preciso, sì, con un puntuale aggiornamento di critica cinematografica. Conta che siamo rimasti sostanzialmente gli unici editori di critica cinematografica presenti in Italia, con riviste e pamphlet e nonché pubblicazioni del settore, sì, al lavoro proprio di programmazione di sale che promuove l'attività del cinema d'autore, del cinema nascosto, del cinema dimenticato, del cinema che non ha affrancamento convenzionale, dappertutto, dalle grandi città ai piccoli centri. Sì, questi sì, sono i due ambiti. Sì. Ce n'è un altro estremamente importante, che è la promozione del cinema nella scuola, e la promozione del cinema nella scuola con percorsi educativi rivolti sia agli insegnanti che ai ragazzi stessi, volti a offrire percorsi di educazione alla lettura critica del cinema. Sì, sì, sì. Ecco, Candido, dicevi che questa, la notizia di questa Italia è arrivata prima di Venezia, volevo chiederti anche quindi a questo punto se c'è stato modo di parlarne lì sul Lido e se state mettendo in piedi delle proposte, una risposta in qualche modo. Allora, guarda, a Venezia siamo stati invitati al convegno dell'ANAC, dove il presidente della FIC ha rappresentato i nostri problemi all'interno di questo momento di riflessione, ma sostanzialmente poco prima della decisione della commissione noi avevamo aperto un'interlocuzione col ministero e col capo di gabinetto del ministero, il quale fra l'altro aveva candidamente dichiarato che non conosceva neanche il grande lavoro che ha potuto, come dire, vedere attraverso la testimonianza dei vari siti delle associazioni. È rimasto anche lui colpito. E di conseguenza noi continueremo a lavorare in questa direzione, cioè tentando un raccordo con le commissioni di cultura della Camera e del Senato per rappresentare le nostre problematiche. Sì. Perché obiettivamente un taglio di questo genere mette a rischio anche quei poveri stipendi part-time che hanno le segretarie nazionali che lavorano e affiancano il lavoro delle associazioni, e che a questo punto siamo costretti, non so, a mettere in cassa integrazione. Non sappiamo veramente come uscirne. Senti, per saperne di più su questa vicenda e anche sulle vostre attività, Candido, ci lasci a dei riferimenti internet, ad esempio? Certamente, potrete collegarvi ai siti nazionali delle nuove associazioni, che sono lanci.it, ccsweb.it, cinis.it, il CSC, la FIC, la FIC, Lucca e la WICE, ma ancora di più io vi invito a collegarvi con il sito riferito a diaridicineclub.it, che aggiornerà questi prossimi mesi di lotta per alcuni versi che noi come Associazione Nazionale di Cultura Cinematografica metteremo in campo. Bene, allora ci sarà modo di riparlarne, teneteci informati. Assolutamente. Bene. Assolutamente. Candido, un abbraccio e risentirci. Grazie Federico. Ciao. Grazie di cuore. A presto. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Candido Coppetelli, coordinatore delle Associazioni Nazionali di Cultura Cinematografica. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15, proseguiamo con gli ospiti. Eccoci con Marino Midena, direttore della seconda edizione del Green Movie Film Fest, la Casa del Cinema qui a Roma, 14 e 15 settembre. Marino, benvenuto. Grazie, un saluto ai tuoi ascoltatori e a te naturalmente. Bene, Green Movie Film Fest, sembra parlare chiaro già dal titolo, seconda edizione. Cos'è, Marino, questa manifestazione? È una rassegna di cinema ambientale che è nata l'anno scorso e che siamo riusciti a riproporre quest'anno nel tentativo di far incontrare il pubblico romano e non solo con un cinema che sta diventando sempre più urgente e importante, nel senso che sempre di più ci sono pellicole, chiamiamole film, che parlano d'ambiente, e questo ci sembra un dato importante. Qualcuno parla di un nuovo genere, non so se si possa già dire che è un vero e proprio genere, si può sicuramente dire che c'è una attenzione nuova alle tematiche ambientali e c'è una forza e una voglia molto importante di raccontarle attraverso il cinema. C'è proprio un bisogno espressivo dei filmmaker, lo vediamo nei cortometraggi, soprattutto sì, nel cinema del vero, nel documentario, ma adesso anche ultimamente nel cinema di fiction, quindi le storie di fantasie che sempre più intercettano questo mondo che fino a pochi anni fa era abbastanza sconosciuto sui nostri schermi. Del resto si moltiplicano anche le rassegne, i festival dedicati proprio alla tematica ambientale, mi sembra un dato indicativo. Marino, quante sono le opere che presenterete, da quanti paesi, da quali paesi provengono? Allora, la nostra è una piccola rassegna, per cui proiettiamo per 2 giorni, sabato e domenica, 10 pellicole. C'è una grossa attenzione alla produzione italiana, noi riteniamo che forse l'Italia sia in questo percorso ancora un pochino indietro rispetto agli altri paesi, dove c'è una tradizione molto più consolidata, per cui abbiamo voluto in qualche modo fare un focus su quello che è attualmente il panorama italiano, un focus che ha 2 punti cardine nella nostra manifestazione, che sono La città ideale di Luigi Locascio e Pandemia di Lucio Fiorentini, 2 film in cui si parla di ambiente in maniera particolare nel film di Locascio, perché il protagonista del film è un fervente ecologista e poi la storia si dipana su alcune tematiche un pochino diverse, però il punto di partenza che caratterizza il personaggio è proprio l'essere un fervente ecologista. Sì. La seconda pellicola, io le chiamo pellicole per affetto, insomma, il secondo film che proiettiamo invece domenica alle 21:15, Pandemia, è proprio forse l'unico caso di un disaster movie italiano, un film che riesce con forza e con intelligenza a evocare degli scenari alquanto preoccupanti, e chi lo vedrà un piccolo gioiello, insomma, come naturalmente La città ideale, che è in programmazione sabato. Entrambi i film sono in serata alle 21:15. Oh, Marino, è prevista la presenza degli autori di questi 10 lavori, e poi se ci dai riferimenti per il programma. Sì, allora degli autori Locascio purtroppo non potrà esserci, però gli altri sostanzialmente hanno aderito con entusiasmo all'invito, quindi il pubblico potrà incontrare i registi. E voglio sottolineare che l'ingresso è gratuito, quindi l'appuntamento può essere stimolante per passare in maniera diversa il sabato e la domenica senza, come dire, intaccare i bilanci, che sappiamo essere sempre molto gravosi ormai. E tutti i riferimenti possono essere trovati sul sito www.greenmoviefilmfest.it, e comunque l'appuntamento è alla Casa del Cinema a partire dalle 16 di sabato, con un film, Promised Land, che è un film importante, con la regia di Gus Van Sant, protagonista Matt Damon, dove appunto si parla di ambiente in maniera forte, perché viene denunciata la pratica della fratturazione idraulica, il fracking per l'estrazione del gas. Il personaggio interpretato da Matt Damon fa, come si dice in gergo cinematografico, un arco di trasformazione che è molto importante, quindi io invito il pubblico a venire sin dall'apertura alle 16 di sabato. Bene, allora ricordiamolo, seconda edizione di Green Movie Film Fest alla Casa del Cinema qui a Roma, 14 e 15 settembre. Marino, un abbraccio e un in bocca al lupo. Grazie anche a te, un abbraccio. Ciao. Ciao. Ce l'abbiamo fatta, il collegamento con Carlo Zoratti, regista del documentario L'amore secondo Enea, che è in programmazione oggi su Doc 3, 12 settembre. E Carlo, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Ricordiamo subito l'orario della programmazione di questa sera. È alle 23:55. Benissimo. Su Doc 3. Tarda serata. Allora, L'amore secondo Enea, una storia di cui ci ha parlato chi organizza il palinsesto di Doc 3, mi sembrava molto interessante, allora parlacene un po'. Beh, è una storia soprattutto di amicizia, perché racconta la storia mia e di Alex, che è un altro mio amico, ma soprattutto di Enea, che è un ragazzo che ha la mia età, ha 30 anni, e che è autistico e che ha sempre desiderato di avere una donna. E noi, come amici, a dire la verità, non abbiamo mai capito bene che cosa lui intendesse, se voleva una donna, se desiderava un rapporto, quindi una donna fisicamente, o se in realtà cercava una relazione. E noi, in un modo un po' strampalato, io e Alex abbiamo cercato di trovare una soluzione per il nostro amico, e da lì è partita un'avventura alla ricerca di una donna per Enea. Il documentario poi ci segue diciamo in questa nostra, in un viaggio, che, chiamandosi Enea, direi che è perfetto come definizione. Senti, questo viaggio cosa vi ha permesso di scoprire e capire? Beh, diciamo che siamo partiti dal livello più semplice, dal livello zero di quello che può essere cercare una donna, per cui abbiamo incontrato delle prostitute per strada. Ci siamo accorti che, diciamo, la relazione con ci sembrava improbabile, una situazione che non funzionava, fino a quando abbiamo incontrato un'associazione di prostitute, che poi ci ha spiegato di fatto che quello che stavamo cercando di fare era illegale due volte, nel senso che noi stavamo favoreggiando la prostituzione, e Enea, essendo incapace di intendere di volere, diciamo non gli è concesso, ecco, avere un rapporto sessuale. Quindi l'unica soluzione era andare all'estero, per cui è iniziato un viaggio fuori dai confini dell'Italia, che ci ha portato poi molto più in là di quello che credevamo, perché quello che noi pensavamo fosse il desiderio di Enea poi è cambiato. Enea ha trovato sempre più una formulazione sempre più chiara di che cosa voleva. Mm-hmm. Però non vi posso dire più di così, se no poi stasera non vi godete il film. Certo. No, a questo punto la curiosità è la dimensione della sessualità per chi vive una disabilità. Mi ripeti, scusa, ti ho sentito male. Sì, la dimensione della sessualità per chi vive una disabilità, come nel caso di Enea, ecco, mi sembra che abbia messo in luce, insomma, una problematica reale. Beh, diciamo, è partito da una problematica reale, ma da una necessità che era molto sua, e sua come quella può essere quella di tanti ragazzi. Sicuramente il film non è un film di denuncia, nel senso che non ci interessa discutere se le cose non vanno bene in Italia, vanno bene fuori, e anzi forse proprio è un po', ci siamo sentiti limitati, un po' come quando a casa dei tuoi genitori non puoi far tardi la sera. In un certo senso, ecco, in Italia non potevamo concederci delle situazioni spericolate con Enea, e quindi siamo dovuti uscire, certo, incontrando delle soluzioni che in altri paesi sono molto più a portata di mano. Ecco, per esempio, ecco, questa dimensione in altri paesi, che casi esistono negli altri paesi? Qual è la differenza rispetto all'Italia? Beh, esiste di tutto, nel senso che oltre alla prostituzione c'è la possibilità di avere degli incontri con degli assistenti sessuali, che poi di fatto non possono essere definiti prostitute, perché c'è una preparazione dietro e un'assistenza data da degli psicologi alla relazione che viene costruita con queste persone, per cui queste forse sono le possibilità che ci sono. Poi, per non parlare, ci sono anche ci sono delle associazioni che organizzano degli incontri tra ragazzi disabili, dandogli la possibilità di vivere la loro intimità, di costruire un rapporto, per cui, ecco, diciamo, il range più o meno è quello. Ecco, in Italia non esistono strutture del genere, associazioni che si curano di questo? No, non ci sono. Ce n'era una, per quanto riguarda gli assistenti sessuali, ovviamente no, perché in Italia comunque rientra nell'ambito della prostituzione, mentre per quanto riguarda associazioni che aiutano e favoriscono le relazioni tra persone disabili, queste esistono, sono dei casi rari e ce n'è in varie regioni, ovviamente sempre con, diciamo, il consenso delle famiglie. Per nominarne una, c'è Libens Hilfe, che è a Bolzano, dove hanno aperto per primi un'associazione che si chiamava Schatzkiste. L'ho pronunciato malissimo, però forse qualcuno può capire, che organizzava proprio incontri tra ragazzi disabili. Ho capito. E quindi... Senti Carlo, dopo questa messa in onda, il tuo documentario sarà fruibile in qualche modo? Beh, adesso stiamo facendo tutto il giro dei festival, per cui a novembre ci hanno appena confermato la partecipazione a Doc Leipzig, a Lipsia. Speriamo in qualche partecipazione più vicino a casa, e per cui adesso ci concediamo qualche mese per andare ai festival e speriamo con tutte le nostre forze di portarlo al cinema. Poi se ci date una mano, a maggior ragione, più richieste abbiamo, più facile sarà portarlo nelle sale. Certo. E avete anche un sito internet di riferimento? Sì, ci possono trovare molte informazioni a www.thespecialneed.com. Scusami, puoi ripetere? È www.thespecialneed.com. Benissimo. Praticamente è il bisogno speciale in inglese. Specialneed. Benissimo. Allora, un in bocca al lupo per questa sera, ricordiamolo, L'amore secondo Enea, all'interno della rassegna di Doc 3 alle 23.55. Esatto, 23.55, noi siamo lì. Benissimo, su Rai 3. Carlo, un abbraccio e a risentirci presto magari. Grazie mille, sì, anche a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Lui era Carlo Zoratti, regista del documentario L'amore secondo Enea, in programmazione questa sera alle 23.55 su Rai 3. È tutto per Visionari di questa settimana. I riferimenti ve li do subito sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni, Visionari, trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di giovedì 12 settembre, oggi, e poi i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata precedente e quelle dell'archivio di quest'anno e del 2012 e poi l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. oltre alla pagina sul sito internet della radio c'è anche quella di Facebook. È tutto, tra qualche istante il Teatro Valle occupato, buon proseguimento.